per ricostruire questa storia, è partito da proprio un evento particolare, un evento di parola, un evento di linguaggio, che è al tempo stesso politico, filosofico e anche di considerazione sulla tecnologia. Questo evento è un discorso fatto il 2 dicembre del 1964 da uno studente di Berkeley, California, di fronte a 5.000 studenti. È, possiamo dire, la prima assemblea del movimento studentesco. La storia del movimento studentesco, che esploderà nel 68 sul piano internazionale, la storia del movimento studentesco in un certo senso incomincia lì, comincia in California, incomincia in una università che sta vicina alla Silicon Valley, in un posto che sarà certamente centrale per tutta la storia dello sviluppo delle tecnologie di comunicazione nei decenni successivi. Cosa dice questo studente? Questo studente fa un discorso che naturalmente è legato al contesto politico, storico, militare di quell'epoca, è legato alla guerra nel Vietnam, è legato alla paura che gli studenti americani hanno di poter essere chiamati e spediti nelle foreste, nelle giungle indocinesi a combattere una guerra criminale e mortale per 50.000 americani, per 2 milioni di vietnamiti. E in quel contesto Mario Savio dice: l'università è diventata una corporation, sta diventando una corporation, un'azienda, un sistema burocratico la cui finalità è il profitto. Noi studenti siamo trattati come materiale grezzo da preparare per gli interessi di questa corporation. Dobbiamo ribellarci, mettere il nostro corpo in mezzo agli ingranaggi della macchina per bloccare la macchina. Parole molto drammatiche anche, che anticipano un processo che negli anni successivi si diffonderà in tutto il mondo. Gli studenti di tutto il pianeta negli anni 60, 70 e in forme diverse anche nei decenni successivi continuano a battersi contro la riduzione della scuola ad una azienda, contro la riduzione del sapere all'economia del profitto, quindi per la autonomia del sapere, perché sanno gli studenti come Mario Savio, sanno che la riduzione del sapere agli interessi dell'economia di profitto è destinata a produrre la loro miseria, è destinata a produrre la guerra, è destinata a distruggere la ragione più profonda del sapere medesimo, che è quello dell'autonomia. Ecco, sull'autonomia del sapere non abbiamo detto niente fino ad ora, però vale la pena di riflettere un attimo anche su questo. Io è proprio chiudo un po' di finestra, se non viene troppo caldo, ci raccontiamo 5 minuti. Cosa vuole dire autonomia del sapere? Riflettiamo sulla storia dell'università moderna. si dice che l'università sia stata fondata nel XI secolo, per la precisione nell'anno 1087, nella città di Bologna. È una cosa storicamente fondata, ma fino a un certo punto, perché poi cos'è esattamente un'università? Nella città islamica di Fez esistono strutture simili all'università di Bologna già da molto tempo prima. Insomma, diciamo che nella città di Bologna nel 1087, nell'XI secolo, si costituisce una struttura la cui storia accompagna molto da vicino le vicende essenziali della scienza e del sapere moderno. Qual è il grande problema che... perché Bologna? Interessante, questo è un argomento interessante. Bologna in quell'epoca, ma non solo in quell'epoca, è un punto di incontro tra clerici vagantes, in latino clericus vuole dire intellettuale. Clerici vagantes sono quegli studiosi, quei ricercatori che nel corso del Medioevo vagavano, cioè si spostavano da un posto all'altro alla ricerca di sapere, di maestri che potessero informarli su conoscenze di tipo medico piuttosto che giuridico, piuttosto che astronomico e così via. E i clerici vagantes che si aggirano nell'area euro-mediterranea, cioè nel mondo che sta a nord e a sud del Mediterraneo, perché come voi sapete in quei secoli il mondo islamico è molto più avanzato, più ricco e più colto di quanto non lo sia il barbarico mondo cristiano in quei secoli, che sono i secoli del pieno rigoglio della civiltà islamica, sono i secoli in cui le due grandi capitali del mondo islamico, Baghdad e Siviglia, da una parte e dall'altra, funzionano come veri e propri centri di tipo politico, ma anche di tipo scientifico. Questo mondo dei clerici vagantes, che provengono dalla Germania, dalla Sicilia, dalla Grecia, dall'Andalusia, dal Marocco, trovano nella città di Bologna un punto fra gli altri, ce ne sono naturalmente, ma Bologna ad un certo punto raggiunge un grado di condensazione, di stabilità, per cui si stabilisce proprio un'istituzione. Irnerio, uno studioso di origine germanica, stabilisce una istituzione che prende nome di Universitas, di Alma Mater Studiorum, e nasce quella che... ma qual è il primo grande problema che l'università di quel tempo deve affrontare? È il problema della autonomia del sapere, e questo problema sarà al centro sia del dibattito filosofico che della ricerca scientifica nei quattro secoli successivi, diciamo fino a Galileo. Autonomia cosa significa in quell'epoca? Vuole dire essenzialmente autonomia rispetto alla teologia, rispetto al quadro teologico del sapere. Potenza materiale della Chiesa di Roma, così come anche poi dell'Islam, del territorio islamico, la potenza della religione impedisce una libera organizzazione della, della ricerca, però un numero crescente di studiosi comincia a sviluppare ricerche indipendenti dal dominio religioso. È di qui che nasce quello che chiamiamo nel 400 l'umanesimo, è di qui che tra il 5 e il 600 fiorisce quella che definiamo rivoluzione scientifica. Il nome di Galileo per l'appunto è, diciamo, un nome simbolico a questo proposito, perché Galileo è quello che nella maniera più sistematica ed efficace riesce ad affermare una visione della scienza che è definitivamente indipendente dal dominio epistemico, conoscitivo, ma anche politico, della teologia della Chiesa cattolica, della Chiesa cristiana. Ora, se noi seguiamo poi la storia successiva della università, della scuola e del sapere, ci rendiamo conto del fatto che nell'epoca moderna il sapere tende a diventare sempre più omogeneo, sempre più legato e sempre più dipendente, in qualche misura, da un nuovo potere universale, che non è più quello della religione, ma che è quello dell'economia. Sarebbe interessante cercare di approfondire, di capire che cosa significa, cos'è l'economia. È l'economia una scienza? E quali sono i caratteri di una scienza? E, beh, è un argomento complicato, ma avete sentito, sapete chi avete sentito parlare di questa questione che riguarda due economisti di nome Rogoff e Reinhardt nelle ultime settimane? Non vi è capitato di leggere da qualche parte del cosiddetto errore Excel? Nessuno di voi ha avuto? Bene, te lo racconto. E come? Dunque, voi forse sapete che negli ultimi 5 anni, beh, seguite quello che succede in Europa, diciamo, seguite il dibattito che coinvolge da una parte la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale, la banca tedesca, il governo tedesco, e dall'altra parte coinvolge invece molte forze della società, soprattutto nei paesi meridionali d'Europa. Sapete che il problema centrale di questo dibattito è quello del debito. Che cosa sia il debito è questione davvero complicata. Dal punto di vista diciamo generale, semantico, il debito è un impegno che ci si assume in cambio di un credito, dell'apertura di un credito. Diciamo, io ti do 100 euro e tu prometti che domani me le restituirai, poi domani ci rivediamo e si discuterà, puoi restituirmeli o non puoi restituirmeli, nel caso tu non possa si stabiliranno delle regole sulla base delle quali fra me e te continua ad esserci un rapporto che nel corso del tempo implica nuovi debiti e così via. Ma insomma, i paesi europei, quando si giunse alla formazione dell'euro nell'ambito della creazione dell'Unione Europea, i paesi europei avevano delle situazioni finanziarie differenti, che significa sia delle situazioni economiche differenti, sia delle situazioni finanziarie differenti. Sul piano economico c'erano paesi più produttivi e paesi meno produttivi. Secondo le regole dell'economia di mercato, cosa voglia dire più o meno produttive è una questione veramente complicata, ma diciamo, quando dico più produttivo voglio dire che la produttività media del sistema economico di un paese è più alta o meno alta. E i diversi paesi europei avevano anche un debito differente. Alcuni paesi avevano un debito molto alto, un debito superiore al prodotto nazionale lordo, fra questi l'Italia, altri paesi avevano un debito meno elevato. Ora, è grave che il debito sia alto o sia basso. Su questo c'è una discussione che non finisce mai in ambito economico. Alcuni economisti, come John Maynard Keynes, che è forse il più grande economista del XX secolo, comunque uno molto importante, che negli anni 20-30 si occupò molto della grande crisi del 29, Keynes disse che il debito non è un problema di per sé, e che in situazioni in cui la società sia poco produttiva, in cui non si riesce a mantenere un livello stabile di occupazione, è meglio indebitarsi un poco per dare alla società i mezzi per riattivare la sua economia. Ora, 5 anni fa, due economisti che si chiamano per l'appunto Rogoff e Reinhardt elaborarono un modello che mi sembra di capire che la signorina di cui non conosco il nome ha trovato Rogoff e Reinhardt in internet, a giudicare dal tuo sorriso, forse no, magari semplicemente trovato un messaggio divertente. E 5 anni fa Rogoff e Reinhardt elaborano un modello secondo il quale quando il debito sale oltre il 90% del prodotto, la recessione, cioè il crollo dell'economia, diventa inevitabile. Dunque è molto pericoloso, dicono Rogoff e Reinhardt, avere un debito superiore al 90%, come fanno l'Italia, la Spagna e la Grecia. Occorre assolutamente rientrare a tutti i costi, perché se non si rientra la recessione, cioè la caduta del prodotto e quindi la disoccupazione e le sue conseguenze, sono destinate ad aumentare. Benissimo, l'economia di tutto il mondo, ma particolarmente dell'Europa, si precipita verso una politica di riduzione del debito. Cosa significa riduzione del debito? Ormai lo sappiamo. Negli ultimi 3 anni la riduzione del debito ha significato in Italia una riduzione di 8 miliardi di euro nel solo settore dell'educazione, con conseguente licenziamento di 130.000 insegnanti nel sistema della scuola pubblica. In Grecia, per dire, la riduzione del debito significa che una persona su tre oggi non gode più del sistema sanitario, si muore di un tumore al seno di cui non si moriva affatto 5 anni fa, un'operazione relativamente semplice, ma una persona su tre in Grecia non ha più la possibilità di affrontarla. In Spagna circa 1 milione di persone sono senza casa o in procinto di essere cacciate dalla loro casa. E potrei continuare, ma non sto qua, tanto vivete in questo mondo, quindi sapete che cosa sta succedendo e cosa continuerà a succedere. Bene, tutto questo è dovuto al fatto che Rogoff e Reinhardt hanno scoperto che naturalmente no, però le autorità monetarie europee, Mario Monti prima, Mario Draghi dopo, Angela Merkel prima, bene chi ha, insomma le autorità politiche e monetarie di Europa in questi anni ci hanno detto, guardate che lo dicono Rogoff e Reinhardt, se il debito è alto la recessione è inevitabile, dunque tagliamo il debito, e hanno tagliato il debito. Qual è il risultato? che la recessione è cresciuta, la recessione è peggiorata spaventosamente, perché, come spiegano alcuni altri economisti, come ad esempio Paul Krugman, che è un economista keynesiano, come suol dirsi, di sinistra, e Krugman ha detto: ma guardate che siete pazzi ragazzi, siete pazzi, perché se voi per ridurre il debito togliete soldi agli investimenti pubblici, al sistema pubblico, al credito nei confronti delle imprese eccetera, è inevitabile che il risultato di questo sarà una riduzione dell'occupazione, del consumo e quindi del prodotto stesso. Sì, rispondevano le autorità europee, ma noi non ci preoccupiamo, perché nel lungo periodo, anche se adesso finiamo nella merda dal punto di vista dell'economia reale, beh, però poi, quando avremo ristabilito un rapporto più equo tra debito e prodotto, a quel punto si potrà riprendere. Ma la cosa è stata smentita dai fatti anche questa, perché come si fa a rientrare del debito? Eh beh, la gente paga le tasse sulla sua attività e queste tasse vanno nelle casse dello Stato, e lo Stato paga il debito. Ma scusate, se l'attività produttiva si riduce, anche l'imponibile, anche le tasse pagate si riducono. Per cui qual è il risultato in un paese come la Grecia, per dire, che nel 2009-2010 iniziano le politiche di riduzione del debito. Due anni dopo la società è completamente sfasciata. I nazisti sono al 12%, attentati razzisti quotidiani, miseria che si diffonde, eccetera, eccetera. Ma almeno il debito è ridotto? No, il debito è aumentato del 3,4%, mentre la produzione diminuisce del 7,2%. Dunque, una catastrofe totale. Ora, due mesi fa, uno studente di Harvard, uno studente che sta facendo il suo dottorato in un'università americana importante, ha rifatto i conti di Rogoff e Reinhardt, ha ripreso tutto quel pacchetto di ricerca che avevano fatto, le equazioni eccetera eccetera, e ha scoperto con grave imbarazzo che c'è un errore. I professori Rogoff e Reinhardt hanno in uno dei loro fogli Excel riportato uno 0,2 come se fosse 2,0. E lo studente, di cui adesso non ricordo il nome, sbaglio a non ricordarlo perché dovrei dimenticare il nome dei due professori, non il nome dello studente, ma sono fatto così. E lo studente, però, forse come ti chiami? Romy. Romy, forse tu sai il nome dello studente? No. E, cercalo. E, basta che tu scriva R. And R, mistake, e ti viene giù una bella lista. Che è venuto giù quando ho messo Rogoff e Reinhardt. Ecco, sì. Ma forse riesci anche a trovare il nome dello studente che li ha corretti. Comincia per M il suo cognome. E, insomma, lo studente ha dimostrato che c'è un errore, mi dispiace, non è vero. Non è vero niente che quando il debito cresce oltre il 90%, allora. Rogoff e Reinhardt una settimana dopo hanno detto: effettivamente ammettiamo, non potevano negare, cioè ormai era di dominio pubblico, non è colpa nostra, è colpa dei fogli Excel, perché sembra che il programma Excel in alcuni casi ti sposta dei numeri, non lo so, c'è una polemica sul funzionamento di Excel. Fatto sta che quella verità economica su cui si è fondata la politica finanziaria europea negli ultimi tre anni sembra che sia del tutto infondata. Ora, voi pensate che il giorno dopo immediatamente la Banca Centrale Europea si riunisca per dire basta, cancelliamo tutto, ricominciamo da capo? Naturalmente no, non è successo niente. Le politiche europee continuano, come dice Mario Draghi, con il pilota automatico quali erano in precedenza. Io credo che noi dobbiamo trarne dobbiamo riflettere su cos'è esattamente la cosiddetta scienza economica, e anche dobbiamo chiederci: ma è l'economia una scienza? E naturalmente si tratta di un argomento di straordinaria complessità, perché allora bisogna dire cosa è una scienza Domanda difficile, difficilissima. Però ci provo. E senza pretendere. Ti ascolto. Rommel. Sì, vorrei dire qualcosa, perché non sono sicura che c'entra tanto, ma è un po' l'economia, è un po' come il tempo, no? Perché ci sono. C'è la scienza che lo investiga, ma non si può mai capire cosa sta per accadere, perché ci sono infiniti fattori variabili. Sì, sì. Io non sono d'accordo con te, e sai perché? Perché capisco che cosa mi stai dicendo che la complessità del fenomeno è tale che la nostra conoscenza non può prevederlo. Si può un po', ma si può prevedere. Basando su statistica, no? Basando su vari, ma però mi pare che tu sottovaluti una cosa non irrilevante, che è questa. Sul tempo io e te non abbiamo nessuna possibilità di influire. Io non posso spostare quella nuvola là con la mia volontà. Nell'economia invece il fenomeno che noi stiamo studiando siamo noi, non le nuvole. Mi segui? La meteorologia è una scienza della complessità che si applica ad un fenomeno altamente complesso e altamente, diciamo, è poco prevedibile. Però è possibile individuare delle tendenze, e quelle tendenze, in qualche misura, probabilisticamente parlando, hanno buone probabilità di determinarsi. Tanto è vero che i meteorologi ci prendono abbastanza, mentre gli economisti non ci prendono quasi mai. E questo già dovrebbe farci dubitare della scienza. Nessuno, tranne Paul Krugman, aveva parlato del crollo finanziario del 2008. Ma come? Ci sono centinaia di migliaia di economisti nel mondo e nessuno aveva previsto il fatto più importante degli ultimi 10 anni, tranne uno che è notoriamente un bastian contrario, un contestatore, eccetera. Come mai? Ma perché l'economia non è lo studio di un fenomeno che esiste indipendentemente dalla conoscenza umana e dall'azione umana. È lo studio di un fenomeno in cui l'azione umana è il principale fenomeno stesso. Mi spiego? Ora, io avanzerei l'ipotesi che, diciamo, la scienza è una forma di conoscenza che tende ad individuare delle costanti, delle leggi in un campo che preesiste obiettivamente alla attività conoscitiva medesima. Cioè, se io dico che la Terra gira intorno al Sole, oppure che i corpi cadono verso la Terra e sono attratti dalla forza di gravità, sto dicendo qualcosa che posso sbagliare o non sbagliare, o dire il giusto, ma sto parlando di un fenomeno che esiste indipendentemente dalla mia azione e che preesiste all'atto stesso del conoscere. La Terra preesiste all'astronomo che la studia. E quando parlo invece di produttività, o parlo del livello dei salari, non sto parlando di una cosa che preesiste al mio atto conoscitivo, al mio atto enunciativo. E dunque non stiamo parlando di una scienza, stiamo parlando di una tecnologia, se volete, perché la tecnologia è proprio l'uso di strumenti conoscitivi per modificare la realtà secondo i nostri fini. Diciamo che l'economia assomiglia più a una tecnologia che ad una scienza. Io direi che assomiglia ad una tecnologia ideologicamente motivata, perché importantissimo è anche l'ideologia a cui l'economista si ispira. Se l'economista è di formazione keynesiana o socialista, dirà che bisogna spendere molto e lavorerà perché la matematica supporti quella sua ipotesi. Non c'è niente di di sporco in questo, non è una porcheria. Il sapere economico è fatto così, è una scelta ideologicamente orientata di mezzi tecnologici atti a rendere possibile una realizzazione di un modello, di un progetto. L'attività è l'economia, è l'attività umana per eccellenza, e dunque è un'attività in cui l'uomo è coinvolto non solo come conoscitore scientifico, ma anche come attore, e dunque in quanto attore ha dei progetti nella mente, no? Tutto questo è chiaro. E invece qui alla Bocconi, da cui si sfornano dei cervelloni che ci hanno portato al disastro nel quale viviamo, e qui alla Bocconi ci raccontano che l'economia è una scienza, perché sono dei mascalzoni, ma questo non ha importanza. La cosa che chiuso l'argomento, ritorno al punto da cui ero partito. Dunque, nel corso della modernità, un'ultima nota, perché qui l'economia è una tecnologia ideologicamente motivata, ma nel momento in cui l'economista nasconde il carattere tecnologico e ideologico delle sue scelte, l'operazione che finisce per compiere è un'operazione di tipo religioso, perché a quel punto gli eventi umani non sono più riconosciuti come eventi umani, ma sono trasferiti nell'universo della legge economica, che non esiste come Dio, ma che giustifica ogni serie di eventi che si svolgono nel mondo umano. Ora, naturalmente, ciascuno di noi è libero di credere nel fatto che ciò che gli esseri umani fanno o disfanno è voluto o non voluto da un essere perfettissimo, eterno, buonissimo, con la barba, è legittimo, però è anche legittimo non crederci. Ecco perché la religione in fondo nella nostra epoca è un dominio che noi possiamo scegliere liberamente, l'economia no. È un dominio che noi non possiamo scegliere liberamente, perché in ogni caso Mario Draghi ci spiegherà che le scelte economiche si fanno con il pilota automatico, per cui voi votate pure per chi vi pare. In ogni caso, se non votate come piace a noi, noi lo licenziamo dalla sera alla mattina, come è successo con Papandreou in Grecia. Vabbè. Questo per dire che nell'uso attuale dell'economia è implicito un elemento di tipo teologico. Le leggi economiche non sono una constatazione empirica, scientifica, sono un'affermazione che non si può discutere, un dogma per l'appunto. Ecco, progressivamente nel corso della modernità questo dogma finisce per diventare il dogma centrale di ogni sapere. Poco alla volta, attraverso trasformazioni epistemologiche, spostamenti politici, spostamenti interni all'ordine dei sapiri delle discipline accademiche, eccetera, eccetera, fino a quando, alla fine del XX secolo, un modello finisce per diventare il modello universale, che è il modello che in Europa viene importato con la Carta di Bologna del 1999. Nel 99 a Bologna, guarda caso, nella città dove l'università è nata, l'università viene anche definitivamente uccisa. Come? Attraverso l'imposizione di un modello che è il modello privatistico, cioè il modello secondo cui la scuola deve sempre di più diventare un luogo nel quale agiscono degli attori di tipo economico che hanno come principale obiettivo il loro profitto e non l'ottimizzazione della conoscenza della società. E questo modello di tipo privatistico naturalmente dovrà mettere al centro del sapere la sua redditività economica, cioè il criterio ultimo di valutazione della verità scientifica e quindi della desiderabilità di una ricerca piuttosto che di un'altra, non sarà che quella ricerca ci permette di capire meglio come funzionano gli atomi, ma sarà quella che ci permette meglio di usare gli atomi allo scopo di ottimizzare il profitto. Ecco dunque che l'economia, per via politica, finisce per diventare il centro epistemologico del sapere umano. Cioè i fisici non compiranno più, non debbono più compiere le loro scelte sulla base di un criterio di valutazione che attiene alla sfera della fisica, ma quando sono a casa loro facciano un poco quello che gli pare, studino fisica, ma quando sono all'interno dell'istituzione che gli dà un salario, debbono compiere, svolgere quelle ricerche che sono utili per il sistema generale, cioè per l'economia. Ecco come il principio fondamentale dell'università e della scuola moderna viene ad un certo punto definitivamente cancellato e sostituito dal dogma. Ora, quando Mario Savio il 2 dicembre del 1964 dice quelle parole drammatiche che abbiamo letto, in realtà non ha presente tutti questi passaggi, ma sente, capisce con l'intuito politico di uno studente che è in pericolo di vita, perché da un giorno all'altro lo possono mandare a morire in Vietnam, sente, percepisce, capisce in che direzione sta andando la trasformazione del sistema universitario americano e poi, come sappiamo, mondiale. Ora, in quella enunciazione, in quelle parole che dice Mario Savio nel 64, non è soltanto contenuto lo sviluppo successivo dei movimenti studenteschi che si diffonderanno nel mondo nel corso del decennio 60 e dei decenni successivi, ma è implicito anche, e questa è la cosa che mi interessa, diciamo, sviluppare nel corso di queste lezioni, è implicito anche un ragionamento di lungo periodo sulle tecnologie di comunicazione, di produzione e così via. Perché? Perché Mario Savio sta dicendo: noi rivendichiamo l'autonomia del sapere rispetto all'interesse corporate, all'interesse economico, ma lo sta dicendo proprio in un territorio che nei decenni successivi vedrà svilupparsi gran parte dell'innovazione tecnologica, soprattutto nel campo delle tecnologie, delle tecnologie trainanti della nostra epoca, che abbiamo definito tecnologie ricombinanti. Con la parola ricombinante mi riferisco essenzialmente a due campi della tecnologia, che sono l'informatica e la biotecnologia o biogenetica. Perché le chiamiamo ricombinanti? Perché sono due tecnologie che si basano sulla premessa secondo cui la trasformazione è la trasformazione tecnologica, il processo tecnologico, il processo produttivo, è fondato sulla continua ricombinazione di elementi che sono creati, costruiti, prodotti secondo un principio di compatibilità. I bit nel campo dell'informatica, il gene nel campo della biotecnologia, sono due principi di informazione ricombinante. Diciamo, quel sapere, quella tecnologia funziona attraverso una continua ricombinazione di elementi di base che sono costituiti sulla base di una premessa di combinabilità o compatibilità, ricombinazione, compatibilità. Queste sono le caratteristiche essenziali delle tecnologie che hanno trasformato il mondo, che stanno trasformando il mondo nei decenni, negli ultimi decenni, nei decenni di passaggio dal XX secolo al XXI secolo. La California è certamente stata il luogo in cui entrambe queste tecnologie hanno avuto uno sviluppo più ricco, ma particolarmente l'informatica, naturalmente. L'informatica è, diciamo, più generalmente le tecnologie del digitale. Ora, negli anni 60, noi siamo partiti da questo discorso di Mario Savio. Quello è un poco, diciamo, quello che hai preso adesso è la scaletta, è diciamo il piano del corso, sono gli argomenti del corso. Ve li manderò adesso, vi faccio una mail, così avete in mente un poco gli argomenti di cui sto parlando così confusamente. Dicevo, sì, no, che io sono partito da Mario Savio, ma avrei potuto partire da tanti altri eventi, enunciati, opere, mode che si sono verificati negli anni 60 in California. Potremmo partire ad esempio dalla diffusione della psichedelia, dalla diffusione delle droghe psichedeliche nel territorio californiano, dalla diffusione di una cultura centrata intorno all'idea che il cervello umano è capace di creare, di costruire mondi che non hanno alcun corrispettivo di tipo oggettivo. La psichedelia è uno straordinario momento di anticipazione di quelle che saranno poi le tecnologie virtuali. Non è un caso che i primi teorici della realtà virtuale, i primi teorici di internet, sono gente che viene dalle culture psichedeliche degli anni 60. Cito un nome soltanto che forse conoscete, che comunque è diciamo fra i più noti nella cultura californiana, quello di Timothy Leary. Timothy Leary è un personaggio molto noto nella California degli anni 60, al punto che a un certo punto decise di presentarsi alle elezioni di governatore e si presentò al suo primo comizio politico su un cavallo bianco dopo aver preso una pasticca di LSD, e questa è la sua presentazione alle elezioni per governatore del 1966. E Timothy Leary non è il terrorista, lui? Scusa? Non era lui il terrorista? Cioè, come si chiama il terrorista? No, forse sto sbagliando, pensavo che lui era quello che diventava un terrorista. Sì. Ah, sì, è potuto scappare nel 68, è ricercato per un'azione, un attentato, non so bene che cosa, comunque un'azione illegale, e quindi è scappato in Algeria, è rimasto in Algeria per 3 o 4 anni, anzi no, prima lo hanno arrestato, poi è riuscito a scappare dalla prigione, è andato in Algeria è rimasto in Algeria per 4 anni e quando è ritornato è stato amnistiato. Ma insomma sì, quello lì è un personaggio molto diciamo avventuroso sulla scena degli anni 60. La sua attività principale è quella legata all'uso dell'LSD, di sostanze psichedeliche di vario genere. Poi la California degli anni 60 è uno straordinario laboratorio della psichedelia. Non so se qualcuno di voi conosce il nome di Castaneda. Castaneda è un antropologo, mi ricordo Carlos Castaneda, è un antropologo californiano che negli anni 50 e 60 ha compiuto una serie di viaggi attraverso il Messico per conoscere le culture legate all'uso della mescalina, essenzialmente. Mescalina, poi la psilocibina, il peyote, insomma le grandi famiglie della psichedelia. E Castaneda incontra in particolare uno sciamano, stregone, come si dice, nel nord del Messico, e stringe un rapporto molto forte sul piano intellettuale con questo Don Juan, e Don Juan lo introduce a una serie di rituali legati alla psichedelia e così via. E Castaneda scrive una serie di libri, alcuni dei quali rimangono, diciamo, sono i best seller assoluti nella California degli anni 60 e 70, Viaggio a Ixtlan, A scuola dello stregone e altri libri che trovate, perché Castaneda è largamente conosciuto anche oggi e naturalmente insomma, all'interno di culture che possiamo considerare culture marginali dal punto di vista attuale, ma la psichedelia. Ecco, la psichedelia è un altro campo di ricerca che ha come territorio le droghe, ma che in realtà ha anche come territorio il cervello umano, la conoscenza, il rapporto fra conoscenza e percezione, sensibilità, i limiti e le possibilità del cervello umano e così. Antonio Caronia ha lavorato molto su un autore del quale parleremo non oggi, ma che è Philip Dick. Philip Dick è uno scrittore di fantascienza. La fantascienza dovrebbe essere in un certo senso l'argomento principale di questo corso, anche se non ce ne siamo accorti fino ad ora. Ma beh, insomma, in qualche modo sì, poi quali siano i limiti della fantascienza lo decidiamo noi. E science fiction, la finzione, l'immaginazione che riguarda il campo della scienza, dei saperi scientifici e anche naturalmente delle tecnologie. Philip Dick è autore di un numero sterminato di romanzi, i più noti, per citarne alcuni, sono La svastica sul sole, titolo originario The Man in the High Castle, L'uomo nell'alto castello, oppure Ubik, oppure la trilogia di Valis, oppure Do the Android Dream of Electric Sheep, forse che gli androidi si sognano delle pecore elettriche, romanzo molto noto perché diventa la sceneggiatura del film prodotto da Ridley Scott nel 1982 con il titolo Blade Runner. Blade Runner, che è certamente il film, diciamo, l'opera più importante nell'intero universo del cyberpunk, delle ciberculture, Blade Runner è costruito a partire da un romanzo di Philip Dick. Chi è Philip Dick? Beh, prima di tutto è un drogato, per dirlo con il linguaggio di un appuntato dei Carabinieri. È un personaggio che vive una vita difficile, tormentata nel corso degli anni 60 e 70 e prende soprattutto anfetamina, bisogna dire che la sua droga di preferenza è l'anfetamina, ma non solo, negli ultimi anni ha anche un rapporto con l'eroina, naturalmente negli anni 60 frequenta le droghe psichedeliche, ma poco mi importa che cosa prendeva lui, mi importa che nel mondo culturale in cui Philip Dick agisce, le droghe psichedeliche svolgono un ruolo decisivo, importantissimo. E la sua opera è un'opera psichedelica. Non a caso voi vedete che la copertina di questo libro, la copertina è disegnata da un... come? Lerici, bravo, Bad Trip, esattamente. E che... Con la psichedelia ha sempre avuto un rapporto molto intenso e molto colto, devo dire. E naturalmente, non occorre che ve lo stia a spiegare, questa copertina entra graficamente sia nel discorso psichedelico che in quello cibertecnologico, ecco, è l'androide che si mescola con lo scheletro, con l'organico, è quel mondo che poi negli anni 80 e 90 emergerà sotto l'etichetta di cyberpunk, di cyberpunk. E qual è l'influsso che la psichedelia svolge sull'opera di Philip Dick? Beh, l'opera di Philip Dick è fondata su una sostanziale impossibilità di distinguere ciò che appartiene al mondo della realtà da ciò che appartiene al mondo della immaginazione, del mentale. Molto spesso nei romanzi di Philip Dick noi perdiamo la possibilità di dire su che piano si sta collocando il personaggio in questo momento. È una sua proiezione mentale o è la realtà? Ma pensate anche a Blade Runner. Il problema fondamentale di Blade Runner qual è? I replicanti. E chi sono i replicanti? I replicanti sono androidi nei quali viene impiantata una cognizione di tipo umano. Dunque sono organi tecnici, organi meccanici o biomeccanici che percepiscono se stessi come esseri umani, che sviluppano una immaginazione che è l'immaginazione umana, fino al punto che l'androide di ultima generazione, Rachel, la bellissima segretaria della Tyrell Corporation di cui Deckard, Harrison Ford si innamora, e Rachel è sì un androide, ma sono state impiantate in lei non solo delle facoltà cognitive umane, ma addirittura una memoria umana. Lei è convinta di aver avuto una madre, di aver avuto un'infanzia, tutto questo non è vero, non è mai accaduto, ma nella sua mente ci sono, c'è la competenza pianistica, sa suonare il piano. Come ha fatto in 3 anni di vita a imparare il piano? Le è stata impiantata una memoria relativa a quella conoscenza lì. Ecco, in Blade Runner, che è la trascrizione cinematografica di un'opera di Philip Dick, noi vediamo come il piano della cognizione è un'espressione molto vasta che comprende l'immaginazione, la memoria, l'attenzione, il linguaggio, la percezione. Nella cognizione è implicita anche l'esistenza del mondo. Il mondo esiste di per sé o è soltanto una proiezione della nostra immaginazione, o forse è il punto di incontro di innumerevoli derive immaginarie, è il punto, diciamo, di condivisione fra le nostre immaginazioni. Beh, in qualche modo possiamo dire che questa non è poi un'ipotesi tanto assurda, perché il mondo è questo. Il mondo non ci sarebbe se noi non lo avessimo per 20 secoli immaginato e proiettato: l'architettura, la tecnologia, l'urbanistica, la politica, l'economia. Cosa sono se non immaginazioni del cervello umano, proiezioni del cervello umano? Ecco, Philip Dick porta questa consapevolezza ai suoi estremi limiti grazie a una conoscenza delle tecnologie psichedeliche, delle pillole o dei funghi che permettono di alterare l'attività della mente. Però al tempo stesso Philip Dick incontra un'altra tecnologia, che non è quella psichedelica, ma che è quella ricombinante informatica, cioè una tecnologia che rende possibile la simulazione di mondi, non come proiezione dell'attività mentale, ma come concrezione, come realizzazione condivisa di flussi puramente informativi. Flussi di pura elettronica coagulata in forma di informazione. Vedete come le tecnologie informatiche incontrano le culture psichedeliche e le incontrano in un punto molto, molto preciso, su un concetto molto ricco, che è quello di virtual reality. Cosa sia la virtual reality? È difficile dirlo, perché negli anni Ottanta se ne parlava moltissimo, si credeva addirittura che il futuro della tecnologia sarebbe stato centrato sulla produzione di convegni di virtual reality, cioè che la tecnologia avrebbe prodotto dei sensori e dei proiettori che ci avrebbero permesso di vivere sempre di più all'interno di un mondo simulato, interattivo, condiviso e così via. In realtà i congegni tecnici della realtà virtuale non sono andati molto lontano, non sono mai entrati nella grande produzione, non hanno conquistato il mercato, e invece la tecnologia che ha finito per prevalere, come sappiamo bene, è la tecnologia della rete, la tecnologia della navigazione all'interno dell'universo digitale. Ma poi se ci pensiamo bene, cos'altro è la rete se non una gigantesca realtà virtuale che ha avuto una funzione molto concreta sui processi produttivi, abitativi, eccetera, eccetera, eccetera, del nostro tempo. In fondo la rete è una realtà virtuale, è una proiezione condivisa da, in questo momento, 1.300.000.000 di persone sulla faccia della Terra. E anche qui torniamo alla letteratura. C'è uno scrittore che si chiama William Gibson, al quale anche Caronia dedica una sua attenzione in alcune delle sue opere, e William Gibson, autore di opere come Neuromance, ad esempio il romanzo da cui l'intera letteratura cyberpunk prende origine, e William Gibson parla di cyberspace, ciberspazio, e lo definisce come una allucinazione condivisa da miliardi di persone che sono collegate tra di loro attraverso elettronica e matematica. Il ciberspazio come una allucinazione condivisa, come uno spazio che non esiste in realtà, e che pur non esistendo nel senso della esistenza materiale, meccanica, fisica, tangibile e così via, pur non esistendo mette in moto processi economici che hanno cambiato evidentemente la nostra vita quotidiana, eccetera, eccetera. Ecco, ma allora, torniamo al punto, gli anni 60. Gli anni 60 sono un momento, un grande laboratorio nel quale la conoscenza scientifica, la ricerca artistica e letteraria e anche la sperimentazione mentale, psichica, neurologica, resa possibile dalla psichedelia, ecco, lavorano a creare le condizioni mentali, immaginative, di quello che poi diventerà, che poi finirà per emergere come un mondo vero, anche se virtuale. Lì appunto abbiamo cominciato a ragionare su virtuale. Qual è l'opposto di virtuale? Virtuale non si oppone a reale, perché il virtuale è realissimo. Tant'è vero che oggi possiamo investire tramite il virtuale, possiamo girare nella città grazie al virtuale, possiamo, gran parte delle attività che facciamo, reali quanto sono, le compiamo a partire dall'universo virtuale. Dunque il virtuale è reale. A cosa si oppone dunque il virtuale? Fisico. Scusa? Fisico, direi di sì. Direi al fisico, al tangibile. Ecco, non è fisico, ma è reale. Certo. E dunque, gli anni 60 elaborano le condizioni immaginative, oltre che scientifiche, di quello che negli anni 90 diventa un mondo condiviso, produttivo, reale, seppur non fisicamente reale. E cosa succede nel passaggio dagli anni 60 agli anni 90? Cioè, come mutano le condizioni filosofiche, ideologiche del passaggio, in questo passaggio. Ecco, questo è un altro argomento del quale ci siamo occupati. Nel passaggio dagli anni 60 agli anni 90, la grande trasformazione, la grande rivoluzione, o forse controrivoluzione, comunque il grande mutamento, è essenzialmente legato con l'affermazione dell'ideologia neoliberale, il neoliberismo come modello che finisce per trasformare l'economia negli ultimi decenni del secolo. E anche su questo abbiamo cercato un poco di vedere quali sono i punti di contatto, di analogia tra il modello liberista in economia e la forma della rete sul piano tecnologico. E lì abbiamo fatto riferimento in particolare a un'opera. Io mi sono riferito soprattutto ad uno scrittore, ad un libro. Lo scrittore è Kevin Kelly e il libro in questione è Out of Control, perché ho cercato di spiegare che nell'opera di Kevin Kelly il modello che definisce la rete, che lui chiama Global Mind, la mente globale, è un modello analogo per funzionamento a quello che il filosofo, il teorico dell'economia neoliberista Adam Smith, più di un secolo prima, anzi due secoli prima, aveva definito con il concetto di invisible hand, la mano invisibile. Adam Smith dice: in una economia di mercato gli agenti economici debbono essere lasciati completamente liberi di interagire fra di loro, di compiere le loro scelte, di sviluppare i loro interessi, perché in nel medio periodo, nel lungo periodo, la loro perfetta libertà di azione risulterà, produrrà una ottimizzazione, una massimizzazione dell'interesse di tutti gli agenti presenti nel mercato. Insomma, se lasciamo che l'economia sia completamente libera, senza nessun tipo di interferenza di tipo legale, di tipo politico, di tipo sindacale, di tipo ecologico, eccetera, eccetera, nel lungo periodo l'economia finirà per produrre il meglio, il miglior risultato per tutti i partecipanti al gioco. Grazie, dice Adam Smith, ad una sorta di mano invisibile che non è il dio dell'economia, ma è la autoregolazione dei sistemi, di un sistema ipercomplesso. Ora, questo principio torna, che aveva avuto grande importanza nel pensiero economico dell'Ottocento, poi era stato un po' abbandonato o almeno, diciamo, criticato nel corso del Novecento, anche perché ha prodotto alcuni disastri giganteschi come la crisi del 29, per dire. E questo modello, che era stato un po' abbandonato a favore di modelli che possiamo definire modelli statalisti, socialisti o modelli misti o modelli di regolazione volontaria, di regolazione politica, come quello di John Maynard Keynes, che dice no, c'è un attore nell'economia, c'è un attore che è lo Stato, che ha un ruolo particolarmente importante, perché lo Stato può intervenire a riequilibrare delle tendenze che l'economia di mercato può portare verso catastrofi. Quindi, insomma, nel Novecento quel modello era andato un po' in discussione, perlomeno, ma è ritornato di grande attualità alla fine degli anni 70, con la vittoria, come sapete, di Margaret Thatcher in Inghilterra, di Ronald Reagan negli Stati Uniti d'America, e poi con la vittoria di Deng Xiaoping in Cina. E sono le tre grandi svolte, Thatcher, Reagan e Deng, in qualche modo fra gli anni 70 e gli anni 80, cambiano completamente la direzione di sviluppo dell'economia mondiale, riaffermando il principio secondo cui ogni agente economico deve perseguire il proprio interesse, e questo creerà nel lungo periodo un mondo di perfetto equilibrio. Deng Xiaoping dice arricchitevi, Margaret Thatcher dice non esiste nulla, there is no such thing as society, la parola società non corrisponde a niente, non c'è la società, ci sono gli agenti economici. E da quel momento in poi, come sappiamo, i rapporti sociali sono cambiati, e come? Ecco, alla distanza risulta difficile dire che nel lungo periodo la libertà, la perfetta libertà di mercato produce il massimo di benessere per l'intera società. No, non corrisponde alla nostra esperienza. Qualcuno potrà dire, ma il lungo periodo è più lungo di così, in lungo periodo saremo tutti morti. In effetti il problema è che il libero mercato non esiste. Margaret Thatcher diceva che there is not such thing as a society, forse si può dire there is not such thing as free market, perché il mercato libero cosa sarebbe? Nel libero mercato ci sono le pistole, i cannoni, la mafia, l'inganno, il linguaggio, la finzione, l'immaginazione, la creduloneria della gente e un milione di altre cose, per cui il libero mercato non è libero, cioè è un'astrazione pura, quella di libero mercato. In realtà ci sono delle forze che si confrontano, si scontrano, e allora c'è cioè chi è più forte, chi è più debole, chi ne sa di più e chi ne sa di meno, e chi è disposto a uccidere e chi non è disposto a uccidere, o magari sarebbe anche disposto ma non ci riesce. Per cui la finzione del libero mercato ha prodotto quello che abbiamo sotto gli occhi, che non occorre che lo descrivo perché lo conoscete, un disastro. Però nel frattempo, negli anni 90, noi possiamo dirlo oggi che è un disastro, negli anni 90 non appariva un disastro. Gli anni 90 sono effettivamente un decennio di grande fioritura economica anche. Naturalmente c'erano un po' di poveri anche negli anni 90, ma negli anni 90 i poveri tutto ad un tratto hanno la speranza di poter diventare ricchi, grazie proprio a quelle novità che stavano arrivando. La rete, per esempio, l'economia virtuale. Ecco, la virtualizzazione costituisce un grande campo di creazione di impresa, di innovazione economica. Nascono migliaia, centinaia di migliaia di piccolissime aziende, di piccolissime imprese, diciamo meglio, che nascono proprio grazie a internet, per esempio, alla rapidissima diffusione della rete globale. Nasce quel fenomeno che prende il nome di dot-com economy. Dot-com è una dot nel senso di punto, sì, dot-com, nel linguaggio del World Wide Web, una dot-com è una impresa che esiste nella sfera del virtuale, sempre, sì. E ecco, la proliferazione, la moltiplicazione delle dot com fra il 95 e il 2000 costituisce un fattore di arricchimento per moltissimi ingegneri, pubblicitari, grafici, puri e semplici, diciamo, cervelli fantasiosi. E quindi la speranza che l'economia virtuale, l'economia della conoscenza, l'economia della rete realmente apra una possibilità di arricchimento per tutti. Contemporaneamente la rete rappresenta un nuovo modello anche sul piano organizzativo, sul piano diciamo del funzionamento dell'associazione, sul piano politico, diciamo così. E questo nuovo modello viene teorizzato da Kevin Kelly con la idea, con la nozione di global mind. E la tesi di Kevin Kelly è che la mente globale non può essere né conosciuta né controllata, governata da nessuna mente subglobale, cioè nessun individuo, gruppo, associazione, stato, partito politico può pretendere di governare la mente globale. La mente globale uguale internet si governa da sola. È un principio potentissimo. Da sola si autogoverna, si autoregola. E questo principio in qualche modo si presenta come un ritorno al modello neoliberista, al modello liberista della mano invisibile. C'è una mano invisibile che rende possibile l'autoregolazione dei sistemi complessi. I sistemi complessi non possono essere governati da nessuna entità che sia meno complessa del sistema. E dunque non c'è nessuna possibilità di governare quel sistema lì. Ecco, la questione dei sistemi complessi è una questione naturalmente difficile da affrontare e del tutto aperta al momento attuale. E, è difficile confutare quella affermazione di Kevin Kelly, anche se l'esperienza ci dice che non tutto è così perfetto nei sistemi complessi. Beh, facciamo che interrompiamo un po', io sono un po' stanco. Arrivederci. prendiamo 10 minuti di pausa, sono di due, sì, 10 minuti di pausa, poi concludiamo questo. Arrivederci fra poco. Posso prendere la prima lezione? Ah sì, grazie. Thank you. ci metto 40 minuti in macchina, però per ogni video ci devo andare almeno due volte, alcune volte tre, e abbiamo scelto dei giorni. Primo video lo Cioè, ce l'hanno solo il drone, sono un centinaio di persone. Giù la casa. quotidiano non ci sono, il pessimo quotidiano non ci sono perché lo faccio io, quindi... Con maglietta pure. Cioè, ma che pazienza. Io sto dal venerdì al lunedì. Se la prossima settimana, sì, dal 9 al 13. Jay Freeman. Sauri. Venerdì, sì. Questo è il capelli e barba così perché non è uscito di casa. Ah. 5-6 anni, sì. Ah, Bologna, perfetto. Perfetto. Potremmo fare il 19 del Buddha. Sì, il fine settimana il 15, il lunedì. Va bene, perché io comunque durante la settimana ho lezioni. Perché sono tutte cose che tu dimentichi, cioè che non diventa qualcosa che non si vede, cioè, ma che poi non diventa un esterno. Cioè, con la domenica. Sì, ma non so, io non vedo. Va bene. Ma no, io non vedo. Infatti non li ho capiti bene. Ma io non li vedo. Il lunedì però no, perché non è situazione. Domenica. Voglio farmi operare, non vado. Ma in teoria il video con lui, dipende da quello che vuoi fare tu, lo possiamo fare. Sì, poi sì. Filmati, vabbè. Esatto. Ma poi anche usare il mio telefono, chiamate, non chiamate. Non è fallimentare. Ma secondo me non è sì, certo. Sta sempre nel mezzo di un passaggio. Esatto. Cioè, io ora lui glielo chiedo, tu già glielo chiedo, sentito. Ok, per sapere se lui è disponibile. Le prime prove, sì, dalle prove che non è solo i video. Certo. Altro casino, capito? Sono incazzati gli israeliani perché hanno fatto Google Palestina, no? Però i territori palestinesi. Se non puoi fare niente. Non puoi. Ma penso che hanno aperto adesso, non so, in Afghanistan un primo mix tour, qualcosa del genere. Bombardato. Secondo te mi conviene il 18? Benissimo, Milano nel quartiere del condominio deposito di rifiuti radioattivi. Sei a casa mia? Non ho vissuto per 15 anni sopra la famiglia di bomba. Via Soave 12. Deposito abusivo di materiale radioattivo. Benissimo, dovrò andare a prendere un po' di materiale radioattivo. Metti che rimani sempre, non so. Può sempre essere utile. Siamo in 7. 7? Davvero? No, no. Davanti. È arrivato a me? È stato dopo 16. Sì, infatti, parecchio. Ah, ok. ricordo le date, però è tutto quello dei Sander ha fatto solo traduzione. Sì, anche io c'ero quindi adesso la prossima lezione è di 21. Sì, sono tutte e tre. Mi accodo, faccio il corso da lì. Ah, ma aspetta, qua c'è scritto. Sì, io l'ho scritto, però non ce l'ho fatta. Sì, ma ho dovuto tornare giù. Allora, allora sempre 8, 9, ma così deve ricominciare di nuovo. Allora, ne stavo parlando con lei, quindi per l'esame, qua, chi un giorno o l'altro la fa l'esame, io vi proporrò un paio di capitoli da uno dei libri di Caronia, o magari vi dico il titolo del libro, chi vuole se lo compra, o facciamo delle fotocopie, o scegliete voi, comunque insomma un paio di capitoli da questi libri, Archeologia del Virtuale, il Cyborg, Philip Dick, sceglieremo o sceglierete. Si tratta, ad esempio, adesso per lei ho fotocopiato un articolo su William Gibson e quindi sul concetto di ciberspazio. Naturalmente dovremo scegliere, io o voi o chi di voi lo farà, dei capitoli che abbiano una particolare rilevanza teorica e che siano cioè riconducibili a questo discorso che io sto cercando di articolare. L'argomento dell'esame non è lo svolgimento del corso. Lo svolgimento del corso è tutta una roba che io spero vi sia utile in qualche maniera. E però per concentrare la quantità di argomenti che sto cercando di sviluppare, dimenticavo che uno dei libri che propongo, allora ce l'ho, i libri di Caronia, poi c'è quel libro di Fred Turner in inglese che trovate in internet e che probabilmente è quello più diciamo più ampio come problematica, quindi volendo potete andare a cercare quel libro, non so se hai l'indirizzo, ma adesso ve lo farò avere, e quel libro o qualche capitolo di quel libro può essere un'ottima introduzione per capire l'insieme del discorso che sto sviluppando. Ah, ma questo ha continuato a registrare? No, non ci capisce niente. Chi lo sa? Eh? No, non è spento, ma l'avevo messo in hold. E vabbè. Dunque, io adesso nelle prossime settimane o anzi se è possibile oggi è venerdì, se ci riesco entro mercoledì prossimo cerco di mandare a tutti voi un paio di testi presi da questi libri ed eventualmente anche una, non proprio una sintesi del corso, perché questo non ci riesco, ma un testo che vi permetta di capire di che cosa stiamo parlando, diciamo così. poi non è del tutto chiaro neanche a me, quindi non è questo il punto. Quello che mi è chiaro è che fra gli anni 60 e gli anni 90 c'è una continuità che prima di tutto appartiene al campo diciamo dello sviluppo tecnologico e poi appartiene ai campi dell'immaginazione letteraria, artistica, filosofica, eccetera. Il modo in cui io oggi in realtà ero venuto qui proponendomi la lettura di alcune cose, ad esempio volevo leggere quel capitolo lì, il capitolo su Gibson, e quindi a questo punto lo faccio. Mi pare che di avere già detto anche troppe cose oggi, quindi non insisto in quella direzione lì e cerco di concentrare l'attenzione su questo capitolo. È il capitolo William Gibson, corpi fisici e corpi sociali, che si trova nel libro dal titolo Archeologie del virtuale, che è un libro del 2001, mi pare, o del 2000, quindi 2001. Quindi nel momento in cui Caronia scriveva queste cose, diciamo, era ancora nello spirito degli anni 90, che era molto diverso dallo spirito dei nostri anni, diciamo dal 2000-2001 in poi il mondo è profondamente cambiato, ecco, e questo è uno degli oggetti della nostra discussione, insomma del nostro svolgimento su cui ci dovremo soffermare prima o poi. Il 2000 è l'anno del cosiddetto dot-com crash o internet crash, insomma il crollo delle illusioni economiche degli anni 90 e il crollo di un certo numero di grandi aziende comunicative globali. E il 2001, insomma, è l'anno, come sappiamo bene, in cui in qualche modo crolla l'equilibrio politico mondiale in seguito agli attentati dell'11 settembre, in seguito alla vittoria alle elezioni americane di George Bush, e quindi in seguito insomma all'inizio della disastrosa guerra americana degli anni 00. Gli anni 00 hanno un segno, una tonalità anche sul piano estetico, diciamo, sul piano immaginativo, hanno un segno radicalmente diverso da quello degli anni 90. Questo passaggio di epoca dovremmo riprenderlo, ripensarlo, approfondirlo, e naturalmente i libri di Caronia non affrontano questo nuovo scenario. Digitare se stessi. Patricia Warrick lamentava in un articolo dal titolo Cybernetic Imagination in Science Fictions, lamentava l'insuccesso dell'immaginazione nella fantascienza cibernetica, troppo imprecisa e distorta la rappresentazione dei computer e delle loro applicazioni, troppo segnato da pregiudizi negativi l'atteggiamento della maggior parte degli autori nei confronti delle macchine. I circuiti elettronici, scrive Patricia Warrick, i circuiti elettronici miniaturizzati offrono scarsi incentivi all'immaginazione letteraria, incentivi offerti invece dal volgere lo sguardo indietro nel tempo sino all'emergere della vita primitiva da una broda colloidale o dall'impressionante spettacolo dei cieli stellati colmi di infinite galassie. Prende considerazione sulla questione fantascienza. Fantascienza letteraria, la letteratura di fantascienza. La letteratura di fantascienza è l'argomento, è uno dei tanti argomenti di cui si è occupato Caronia, ma forse è quello in cui ha prodotto di più. Sapete che Caronia è stato un traduttore di Ballard, di Burroughs, di tanti autori che stanno in un campo letterario molto vicino alla fantascienza. È difficile delimitare il campo del genere, della fantascienza come letteratura di genere. E la science fiction è narrazione che ha come oggetto la scienza, però detto così siamo un po' in un campo troppo vasto, troppo impreciso. Fatto sta che nel Novecento noi abbiamo il fiorire di un vasto campo di letteratura che immagina ciò che accadrà nel futuro, in un futuro dominato da tecnologie che rendono possibile la navigazione interstellare, l'esplorazione di nuovi mondi, la scoperta di altre entità viventi, extraumane. Questo è il campo della fantascienza classica, che ha come grandi nomi autori come Isaac Asimov o Stanislaw Lem o Shelley o tanti altri il cui nome mi sfugge al momento, ma sono talmente tanti che o Ursula Le Guin, per dire, autori che in modi molto diversi però sempre immaginano diciamo ciò che la scienza ci permetterà di conoscere al di là dei limiti della nostra esperienza terrestre. Bisogna ricordare che nella letteratura dell'Ottocento già c'erano stati autori che erano andati in questa direzione. Uno è Verne, Jules Verne, il quale può essere, con qualche diritto, può essere considerato come il vero iniziatore o ispiratore di questa fantascienza a carattere fortemente positivista. Però ci sono altri autori, ad esempio Mary Shelley, che aveva scritto un romanzo su Frankenstein, sul mostro, e il mostro composto di parti organiche, parti meccaniche, elettriche e così via, e quel libro lì andava in una direzione un po' diversa, piuttosto che la direzione della fantascienza extraterrestre, andava in direzione di una immaginazione tecnologica e scientifica tutta centrata sull'umano, sul corpo e sulla mente umana. Ecco, vedete già che ci sono due poli che fin dall'inizio della letteratura di fantascienza si differenziano fra loro. Non c'è dubbio che nel corso del Novecento il filone Jules Verne, cioè il filone più positivista, concreto, meccanico, diciamo così, ha avuto il sopravvento, per l'ovvia ragione che l'immaginazione scientifica del Novecento è essenzialmente meccanica. È la macchina esterna, la macchina di ferro, d'acciaio, di fili collegati all'elettricità, che agisce nella dimensione della città, della fabbrica, comunque nella dimensione esterna rispetto al corpo umano. Ora, l'altro filone, quello che si può riferire a Mary Shelley, ad un certo punto comincia a diventare un filone interessante proprio a partire da una rottura dello spazio immaginativo che si verifica essenzialmente, una rottura dello spazio immaginativo che si verifica essenzialmente negli anni 60 e che ha come personaggio principale Philip Dick. Cos'è questo cambiamento dello scenario della fantascienza? A un certo punto la letteratura fantascientifica abbandona il terreno della macchina esterna, dell'astronave, della turbina, insomma dell'oggetto meccanico, elettromeccanico che agisce sul mondo o fuori del mondo terrestre, e comincia a occuparsi di un altro spazio, che è lo spazio interno della mente. Direi che da una fantascienza meccanica passiamo ad una fantascienza mentalistica, se così vogliamo chiamarla, che coincide poi con la creazione delle macchine elettroniche di simulazione del linguaggio, insomma il computer. E coincide con l'avvento delle grandi tecnologie ricombinanti, l'informatica e l'elettronica, che sono essenzialmente tecnologie di mutazione dello spazio umano, del tempo, del corpo, della mente. Dalla fantascienza spaziale direi che passiamo alla fantascienza psicotemporale. La dimensione della mente e quindi la dimensione del tempo diventa più importante rispetto alla dimensione dello spazio, quindi dell'esplorazione extraterrestre e così via. Alla macchina esterna delle tecnologie elettromeccaniche succede la macchina interna delle tecnologie bioinformatiche o ricombinanti. Questo insomma è quello che in qualche modo caratterizza il passaggio che si verifica a partire dagli anni 60. Philip Dick è certamente il pilota, il pioniere di questa trasformazione, perché le sue opere, pur non, Philip Dick non parla di computer, non parla di internet, ma le sue immaginazioni sono proprio la rete che connette le diverse menti o la proiezione mentale che si trasforma in mondo, il mondo che si trasforma, insomma è il confine fra la mente e il mondo che poi verrà ripresa, approfondita, elaborata dall'immaginazione delle ciberculture e così via. Questo Philip Dick è quindi lo scrittore di trapasso dalla fantascienza classica, meccanica, alla fantascienza, alla ciber fantascienza degli ultimi decenni del secolo. Ma oltre Philip Dick dobbiamo citare il nome di William Gibson, perché William Gibson, che comincia a scrivere i suoi romanzi negli anni 80, quindi già nel momento in cui le ciberculture stanno prendendo forma, la realtà virtuale sta diventando un esperimento tecnologico concreto e la rete comincia a delinearsi come una possibilità all'orizzonte, e quindi negli anni 80 noi vediamo che William Gibson elabora questo concetto di ciberspazio. Patricia Warrick, di cui Caronia ci riferisce, ci dice che fino ad ora, sia negli anni 80, La fantascienza, che era così brava a immaginare delle astronavi e tutto quello che le astronavi scoprivano in mondi lontani, però la fantascienza non è stata altrettanto brava nell'immaginare i computer, per forza. L'astronave è un oggetto di facile immaginazione, il computer è più difficile immaginarsi che cosa possa muovere in termini narrativi, in termini esplorativi e così via. Soprattutto quando ancora il computer era quell'oggetto isolato, mainframe, lento in termini di capacità di elaborazione, che è il computer fino agli anni 80, diciamo così. Ecco, ma risponde Caronia, credo che si possa dire che con William Gibson abbiamo invece finalmente un cantore, un poeta, uno scrittore, che è insieme preciso e ispirato delle tortuosità miniaturizzate dei chip. Con William Gibson il chip, l'unità di elaborazione informatica, trova finalmente uno scrittore capace di immaginazione. Neuromance, Count Zero, tradotto in italiano con il titolo Giù nel ciberspazio, Mona Lisa Overdrive, e io aggiungerei anche Burning Chrome, i suoi romanzi dell'84, 86 e 88, rappresentano un convincente tentativo di dare voce a una generazione cresciuta con i computer e con tutto ciò di cui i computer sono simbolo, e rappresentano uno sforzo potente di visualizzare gli spazi astratti, le matrici di dati che abitano le memorie elettroniche, che sono accessibili al comune mortale solo tramite i software applicativi della computer graphics. Ecco qua, Caronia fa un'osservazione interessante anche dal punto di vista dell'immaginazione narrativa. È facile immaginare che cosa c'è su Marte e che cosa ci sta dentro un'astronave che per un milione di anni deve rimanere in orbita. È un po' più difficile immaginare qualcosa che renda visivamente la complessità grafica del calcolatore. Ecco, tant'è vero che se voi pensate all'immaginazione cinematografica, Matrix. Matrix usa un espediente grafico abbastanza interessante nel modo, però anche un po' ingenuo, cioè sono queste specie di, lo ricordate, no? Le cascate di dati che si fondono l'uno con l'altro. Ora, quei dati colore verdolino su fondo grigio scuro sono esattamente il modo in cui io ho conosciuto i computer. Io ho visto il primo computer della mia vita nel 1977 o 78 e ho usato un programma di scrittura North Star nel 79, quando ancora non ero io, avevo un amico informatico hardwareista e quindi lui mi ha fatto proprio provare un programma che aveva creato lui partendo da un programma North Star, che è uno dei primi programmi di scrittura, e ancora non c'era il display, i primi display credo, sono la Apple, è la Apple che introduce la connessione tra tastiera e lo schermo, quindi sono successivi al 77, e in Italia io ho usato il mio primo Classic Macintosh nell'85, e ho ancora a casa, ho un Classic 1 comprato nel 1989, conservato, però prima ne avevo usato uno precedente, un Classic 1 delle prime generazioni, e la grafica era quella lì, cioè lettere verdi sul fondo grigio scuro. Matrix si riferisce a questo, Matrix il film è del 99, quindi già il computer può elaborare il colore, eccetera, però lì si fa la scelta di usare un'immaginazione molto diciamo originaria per andare come proprio al cuore del problema. Il cuore ovviamente sono i numeri, sono le serie in continuo mutamento di numeri che codificano stati dell'essere, diciamo così. E quindi è molto, in questo la scelta dei fratelli Wachowski è, come in molte altre cose del loro film, una scelta molto concettuale, molto filosofica, vorrei quasi dire. È come dire le infinite manifestazioni visive dello schermo sono riconducibili a una cascata di cifre. Però giustamente, dice Caronia, non è così facile elaborare un'immaginazione dell'elettronica, dell'informatica. In Neuromancer Gibson ha scelto il ciberspazio e le periferie di solitudine e di emarginazione, di orgoglio e di fredda violenza, un noir metropolitano che fa i conti in modo molto preciso con la tradizione americana di questo genere. La mente corre subito ad Ashiel Hammett, che è uno scrittore di noir degli anni 40-50, se non mi sbaglio. Ecco, effettivamente Neuromancer, il primo romanzo di William Gibson, grandissimo successo editoriale, premiato con insomma in alcuni dei premi più importanti per la fantascienza, e insomma un romanzo di grande successo. E in quel romanzo William Gibson crea un poco il modello immaginativo di una letteratura delle tecnologie elettroniche e anche ormai della rete, diciamo così, e lo crea a partire da una influenza che è quella del noir, della letteratura di genere, così di una certa letteratura di genere, soprattutto americana, anche particolarmente californiana. Un'altra influenza evidente nella letteratura di Gibson è il punk, tant'è vero che dopo Neuromancer, dopo la pubblicazione di questo libro, si comincia a parlare di cyberpunk, una parola nuova che definisce un genere nuovo che sta emergendo, che è per l'appunto all'incrocio fra l'astrazione matematica del linguaggio informatico, difficilmente immaginabile, rappresentabile così, e però un sentimento di degradazione, di violenza, di sofferenza che voi avete visto, conoscete Videodrome di Cronenberg, e quindi sapete a cosa mi riferisco. Ecco, un sentimento di sofferenza che è quella provocata dall'incontro, l'incrocio, l'introduzione, la penetrazione del congegno elettronico all'interno della carne, della fisicità, del cervello, della psicologia, eccetera. È questa introiezione, penetrazione della tecnologia, della materia elettronica, che in un certo senso costituisce un elemento di violenza, e quindi riferimento al noir, e di sofferenza, e quindi riferimento al punk. Da qui nasce questo stile, questo spirito, che informa prima di tutto la letteratura, ma poi si diffonde in ambiti, nell'ambito visivo, cinematografico, musicale, filosofico, eccetera, che prende nome di cyberpunk. Una parola estremamente, significativa per gli echi che sollecita, perché è come un ossimoro, è come una parola che dice due cose fra loro contraddittorie: cyber, ovvero la sfera dello smooth, del clean, del pulito, del perfetto, del matematico, e punk, cioè la sfera del marcio, del peloso, dello sporco, del sanguinoso, dell'organico. Ecco, l'elettronica e l'organica. Mi sembra di avervi già detto che nel 94 Mario Perniola, che è un filosofo che si occupa soprattutto di estetica, scrive un libro intitolato Il sex appeal dell'inorganico. Ecco, questo è il punto. Nell'inorganico, nell'elettronico, nell'informatica, vi è qualcosa che ad un certo punto entra in contrasto, ma anche in connessione con la sfera del desiderio, dell'immaginazione, dell'erotismo. E sono anche gli anni in cui nella dimensione erotica emergono forme di comportamento che provengono da ambienti, che sono gli ambienti del sadomaso, per esempio, gli ambienti dell'introduzione dell'inorganico all'interno della carne. Ecco, questa la borchia, per così dire, che allude proprio a questa eroticizzazione del corpo estraneo, di un corpo che non è un corpo, anzi, di un corpo che non è organico. Ecco, la congiunzione tra il carnale e l'inorganico. Questo è il fattore inquietante del cyberpunk. Congiunzione, ho usato la parola congiunzione, che è una parola che riguarda l'organico, che riguarda i corpi, sono i corpi che si congiungono, mentre i congegni si connettono, congiunzione e connessione. Ecco, provate a riflettere su questa differenza e vi rendete conto del fatto che stiamo parlando di una cosa che sul piano antropologico, estetico, cambia moltissimo lo scenario culturale, lo scenario umano nel passaggio al nuovo mondo, insomma, al mondo attuale. Il mondo moderno, il mondo pre-elettronico, è essenzialmente un mondo congiuntivo, un mondo nel quale i corpi si congiungono. Si congiungono vuol dire che si incontrano, tentano, provano, riescono, non riescono, sperimentano, si amano, si odiano. Ecco, poi entriamo invece nella sfera del connettivo, e nella sfera del connettivo non abbiamo corpi, abbiamo segmenti ricombinanti che sono compatibilizzati, cioè debbono agire secondo il medesimo formato. Se voi provate a connettere due macchine che sono state formattate in maniera diversa, la connessione semplicemente non funzionerà, non avverrà niente. Il formato deve essere compatibile perché i due congegni connettivi possano connettersi e quindi produrre qualcosa. Non è così per i corpi umani non rispondono ad un formato, ci provano, Talvolta la congiunzione è felice, talvolta la congiunzione non è felice, ci proviamo con un altro. È una trasformazione, quella di cui sto parlando, che riguarda, a mio parere, un livello molto profondo nella dimensione antropologica, culturale, ma anche nella dimensione psicologica. Cioè, se vogliamo capire qualcosa della mutazione psicologica che stiamo vivendo, dobbiamo capire che noi stiamo abbandonando il mondo della congiunzione per entrare sempre di più nel mondo della connessione, per entrare sempre di più in un mondo in cui i connettivi, gli elementi, i segmenti che intendono connettersi devono prima di tutto essere compatibili fra loro, le macchine. Ma gli esseri umani tendono a diventare poi sempre di più formattati sui ritmi, sulle modalità comunicative, sui formati delle macchine medesime. Dunque stiamo parlando sì di una trasformazione che riguarda la tecnica, ma la tecnica entra nella dimensione antropologica e quindi la tecnica connettiva finisce certamente per influenzare in qualche modo. In quale modo non lo sappiamo ancora, perché stiamo parlando di una mutazione di lunghissimo periodo, di cui forse già oggi cominciamo a vedere i primi segnali. Ecco, benissimo, tutto questo è un po' un tema della riflessione del cyberpunk. E io adesso qui la farei finita, perché poi questo articolo lo ricopio.